2. Ascolta e ripeti. Dov'è Sandro? È in ritardo? Chi è Sandro? Sandro è un avvocato. È un ragazzo italiano. È anche lui nel corso di pittura della scuola. Ecco Sandro, è di corsa. Buongiorno. Buongiorno Mina, buongiorno Rosa. Piacere, mi chiamo Sandro. Tu come ti chiami? Mi chiamo Carla, piacere. Dov'è la macchina, Sandro? È qui a 2 passi. Andiamo? Sì, grazie. Ok. Grazie, grazie Sandro.